Avrete letto anche voi qualche tempo fa come il senatore Agnelli, forse al fine di assicurarsi, se mai ce ne fosse bisogno, il favore di una componente importante della futura probabile maggioranza, abbia consentito l'esposizione in pubblico nell'ambito della rassegna 900 Arte Storia in Italia, allestita presso le scuderie papali del Quirinale, di un pregevole quadro della sua collezione di famiglia. Si tratta di una tela di grandi dimensioni, rappresentante ad opera di Giacomo Balla, 1871-1958, un episodio della Marcia su Roma. E l'opera, per la precisione, rappresenta Mussolini in compagnia dei principali gerarchi sullo sfondo di Piazza del Popolo ed è realizzata secondo i dettami di una tecnica minuziosamente realistica, tanto realistica da rendere possibili parecchi puntuali riscontri con la documentazione fotografica d'epoca. In effetti, a giudicare dalle riproduzioni che si sono viste sui giornali, ricorda molto quelle vecchie tavole che illustravano la copertina esterna della Domenica del Corriere, se qualcuno se le ricorda, e sembrerebbe proprio una fotografia glorificata. Se non fosse per il fatto che Mussolini, come è noto, la marcia su Roma si guardò bene dal partecipare, nel senso che restò a seguire lo svolgersi degli eventi da Milano a due salti dal confine svizzero e nella capitale si trasferì in vagone letto soltanto quando gli fu comunicato che Re era rifiutato di firmare lo stato d'assedio, che il governo aveva calato le brache e che tutti erano ansiosi di fare altrettanto. Ma questa, si sa, è un'altra storia. Non bisogna supporre comunque che un uomo raffinato come il presidente onorario della Fiat si tenga in casa una specie di biografia raffigurante per di più un episodio che alla storia patria non fa esattamente onore. La presenza della marcia su Roma nella collezione della famiglia Agnelli potrebbe essere più casuale di quanto uno spirito maligno venga spontaneo o supporre. Giacomo Balla, che come ognuno sa visse da protagonista buona parte della vicenda delle avanguardie artistiche del secolo testé trascorso e fu particolarmente legato all'esperienza del futurismo, realizzò quel soggetto nel 1932-35, utilizzando all'uopo il retro di una tela di cui già si era servito, quella su cui aveva dipinto nel 1913 uno dei suoi capolavori futuristi, Velocità astratta. E non si tratta, badate bene, di una specie di moderno palinsesto, di un caso di recupero di un materiale passato di interesse. L'artista intendeva evidentemente che l'opera precedente fosse conservata e fruita nella sua autonomia insieme alla nuova. Tanto è vero che si era premunito con il semplice espediente di dipingere le figure della marcia su Roma capovolte rispetto a quelle della velocità astratta, si era premunito contro l'eventualità di una esposizione double face. Il possessore dell'opera, insomma, avrebbe potuto decidere a piacere suo se esporla come un esempio di piaggeria orografica o come un modello di sperimentalismo creativo. Ma per cambiare punto di vista avrebbe dovuto prendersi il disturbo, oltre che di voltare il quadro, di capovolgerlo. A meno naturalmente che l'avesse fatto montare sul modello di quelle vecchie lavagne girevoli che un tempo si collocavano nell'angolo delle aule scolastiche. Tutto questo, lo ammetterete, suscita degli interrogativi inquietanti. E non tanto relativi a quale delle due facciate faccia bella mostra di sé solitamente nel salotto di casa Agnelli. E questa sarebbe soltanto una domanda indiscreta e tutto sommato di scarso interesse. Il vero problema è quello del perché Balla si sia ridotto a dipingere un quadro destinato sempre a un'esposizione ufficiale celebrativa sul retro di un altro. Non credo che l'abbia fatto perché costretto dal bisogno. Io non sono particolarmente informato. Dei particolari della sua biografia, ma suppongo che nel 32 fosse perfettamente in grado di concedersi volendo una tela nuova. Eppure decise di riutilizzarne una già usata, come se nel momento stesso di compiere quella che per la sua carriera, almeno come la conosciamo noi, rappresentava una svolta piuttosto radicale, il passaggio dall'astratto al figurativo, dallo sperimentale all'accademico, come se in quel momento avesse deciso di affermare in qualche modo anche il se stesso di prima. Strana gente, gli artisti. danno voce e corpo con le loro opere alle trasformazioni culturali del mondo in cui vivono insieme a noi, ma non sempre ne traggono tutte le conseguenze dovute. Il futurismo era nato con l'intenzione precisa di capovolgere i valori artistici, letterari, musicali e financo gastronomici della cultura borghese. E sarebbe finito in gran parte sotto l'insegna del fascismo, che della borghesia più o meno colta era allora e a quanto pare ancora oggi il figlio prediletto. Certo, i fascisti proclamavano a gran voce la volontà di cambiare tutto, ma non ci voleva molto a capire che quelle erano soltanto parole. E anche a volerle prendere sul serio, beh, c'era modo e modo. Marinetti, per citare colui che del futurismo fu indiscusso a caposcuola, non poteva non capire che per chi aveva esordito nel mondo delle lettere affermando la necessità di ammazzare il chiavo di luna e di fare a pezzi le niche di Samotracia, finire come presidente niente meno che dell'Accademia d'Italia con Feluca e tutto fosse un pochino contraddittorio. E difficilmente a Balla sarà sfuggito il fatto che il percorso che portava dalle compenetrazioni iridescenti e da velocità d'automobile più luce e rumori, per citare due delle sue composizioni più note degli anni 10, a una celebrazione oreografica della marcia su Roma, beh, come percorso fosse perlomeno contorto. Evidentemente lo aveva capito benissimo. E diversamente da quanto usano fare i normali voltagabbana, aveva deciso di non fare finta di niente. E la contraddizione ovviamente era sua, ma unendo indissolubilmente l'una all'altra quelle due facciate, aveva se non altro provato a rimandarla al mittente. Nel senso che se lui contraddiceva se stesso mettendosi per interesse, suppongo, al servizio di altri, voleva che anche quelli che lo avevano preso a servizio capissero che il servirsi di lui non era interamente privo di contraddizioni. Come se dicesse: cari miei, se mi volete dovete prendermi in blocco, velocità astratta del 1913 compresa. Forse tutta questa è solo una mia fantasia. Io d'arte, come vi ho sempre detto, ci capisco ben poco, di ideologia dell'arte ancor meno. Ma mi piace l'idea di chi, nel momento in cui cede per un motivo qualsiasi alla necessità di cambiare lotta, cerca di difendere in qualche modo anche la sua lotta precedente. Vedete, di voltagabbana io ne ho visti parecchi e molti altri, state sicuri, dovremo vederne tutti quanti nei mesi che ci stanno davanti. E in genere a salvare la dignità del proprio passato costoro non ci pensano affatto. Anzi, di solito è la prima cosa di cui decidono di sbarazzarsi. In questo specifico caso mi sembra sia giusto sottolineare la differenza. You're alone and life is making you lonely. You can always go.